intimo. Mi ricorda la mia infanzia, la mia infanzia. Un sole artificiale mi sorride nella nebbia. Il vento soffia forte, soffia, soffia, soffia, soffia. Ecco lontana un fragore nella notte, il bianco e il nero, il bene e il male. Questo è il mio tempo e questo è il mio mondo. Questo è il mio tempo e questo è il mio mondo. Questo è il mio mondo.